Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Eccomi qui, sono tornata. Intanto buongiorno, grazie per essere in nostra compagnia. C'è chi ha fatto vacanze da sogno, chi le vacanze le ha solo sognate. Quel che è stato è stato. Una cosa è certa, care amiche, cari amici, nuovi sogni ci attendono e se qualcuno dovrà aspettare la notte, ad altri basterà aprire il cassetto. Ad occhi aperti o ad occhi chiusi, i sogni aiutano a vivere meglio. Sognare per credere. E che succede dopo che lui ha scalato la torre e salvato lei? Che lei salva lui. Benvenuti a Hollywood! Qual è il vostro sogno? Tutti vengono qui. Questa è Hollywood, la città dei sogni. Alcuni si avverano, altri no. Ma continuate a sognare, questa è Hollywood. Si deve sognare, perciò continuate a sognare. Pretty woman, walking down the street. Pretty woman, the kind I like to meet. Pretty woman, I don't believe you, you're not the truth. No one could look as good as you. Mercy. Sognare aiuta. Cari amici, non è solo un modo di dire, le neuroscienze stanno indagando proprio in questa direzione. In linea con noi abbiamo il professor Luigi Ferini Strambi, responsabile del Centro di Medicina del Sonno del San Raffaele Turro di Milano, nonché grande amico della trasmissione Essere Benessere. Buongiorno professore, bentornato. Buongiorno, buongiorno, grazie a voi. Professore, noi passiamo un terzo della nostra vita dormendo, un dato che la dice lunga sull'importanza del sonno per la nostra vita, per il nostro benessere. La ricerca, lo sappiamo, l'abbiamo detto più volte, ha dimostrato che il sonno è fondamentale per consolidare la memoria, per l'apprendimento, per la regolazione dell'umore. Insomma, professore, chi dorme non piglierà pesci, ma ci guadagni in salute, ma mentre dormiamo noi sogniamo e lo facciamo in una fase particolare del nostro sonno. Sì, è una fase un po' particolare, è quella che si chiama fase di sonno REM. REM vuol dire Rapid Eye Movement, cioè movimenti oculari rapidi, proprio perché mentre noi siamo in questa fase di sonno, i nostri occhi si muovono molto velocemente come se stessero inseguendo qualche scena particolare. Quindi, ecco, la cosa interessante è questa: se passiamo un terzo della nostra vita dormendo, passiamo un quarto del nostro sonno a sognare. Cioè, quindi, durante la notte circa il 25% del nostro sonno è occupato appunto dal sonno REM, che è proprio la fase in cui facciamo questi sogni particolari. Tra l'altro, professore, ultimamente la ricerca si sta concentrando proprio sul ruolo del sonno REM, mentre quelli sugli effetti del sonno profondo sono noti. Sul sonno REM la ricerca è molto attiva. Ci sono delle buone novità? Ci sì, faccia sognare. La ricerca sul sonno REM è molto attiva perché in realtà la maggior parte di quelle che sono le funzioni fondamentali del sonno, che ricordava anche lei prima, cioè il fatto di avere un buon recupero sul piano fisico, il fatto di abbassare il livello della nostra pressione arteriosa e quindi consentirci, diciamo così, una sorta di condizione di recupero per il nostro cuore, per il nostro apparato cardiovascolare. Ecco, tutto questo in genere è collegato, strettamente collegato alle fasi di sonno profondo, quelle che appunto sono le fasi 3-4 non REM, che sono presenti soprattutto nella prima parte del sonno. Meno sappiamo sul sonno REM e quindi la ricerca sta lavorando molto proprio per cercare di capire quali sono le sue funzioni, al di là di quelle della memoria, al di là di quelle, l'altro aspetto fondamentale è quello proprio quello che è l'impatto proprio sul nostro mondo emozionale, sulle nostre emozioni. Quindi verosimilmente anche quello che poi noi proviamo durante il giorno sul piano emotivo è molto regolato da quello che è il sonno REM appunto che abbiamo la notte precedente. Dicono che usiamo solo una frazione del vero potenziale del cervello, questo quando siamo svegli. Quando dormiamo, la mente può fare quasi ogni cosa. Ad esempio? Immagina di progettare un edificio, d'accordo? Ne crei consapevolmente ogni aspetto, ma a volte sembra quasi che si stia creando da solo, non so se mi spiego. Sì, sì, come se lo stessi scoprendo. È pura ispirazione, giusto? Mm-hmm. In un sogno la nostra mente lo fa di continuo, senza interruzione. Noi creiamo e percepiamo il nostro mondo simultaneamente. E la nostra mente lo fa così bene che neanche ce ne accorgiamo. I sogni sembrano reali finché ci siamo dentro, non ti pare? Solo quando ci svegliamo ci rendiamo conto che c'era qualcosa di strano. E oggi ci farà sognare anche il dottor Luigi Ballerini, medico, scrittore, psicoanalista freudiano, che, diciamocela, come psicoanalista il sogno è un po' debitore. Intanto buongiorno, è qua in studio con me. Buongiorno, direi sì, è come se sono debitore al sogno. Meno male che li hanno inventati, se no voi come facevate? Meno male che c'erano e noi li abbiamo scoperti. Mm. In realtà è stata davvero una scoperta di Freud quella dell'aver dato una dignità al sogno, perché se ci pensiamo l'uomo ha sempre sognato, l'abbiamo sempre cercato di interpretare, ma colui che ha voluto dare una reale dignità e un peso, tanto che fosse materia da studiare e da esplorare, è stato davvero Freud e io sono debitore a lui. Quindi metteremo i nostri sogni sotto la lente incrociata di un neurologo, a cui immagino i sogni diano indizi sulla qualità anche del nostro sonno, e di uno psicoanalista freudiano, che i nostri sogni invece mi auguro ci aiuterà a ricordarli, forse, ma anche a tradurli per interpretarli. Sarà proprio una bella sfida questa. Vediamo cosa, se riusciamo a capire un po' di più di che cosa i nostri ascoltatori hanno sognato stanotte, ad esempio. 800 24 00 24. Che cosa possiamo chiedere? Il sogno di stanotte? Possiamo chiedere il sogno di stanotte, possiamo chiedere se c'è quello che viene definito sogno ricorrente, quindi qualche cosa che mi sembra di averlo già sognato, addirittura lo so che torna, e questi sono dei sogni particolari, perché insomma propongono in continuazione delle situazioni che quindi in qualche modo ci stanno a cuore, ma anche magari un sogno che ci ha terrorizzato o un sogno che ci ha fatto ridere, e a volte ci svegliamo contenti la mattina. Mi piacciono questi. Proviamo a ricordarcelo. E anche un'idea che magari vi è venuta in sogno. Oh, questo è grandioso, un'idea che è venuta in sogno e che magari l'abbiamo realizzata e guarda caso è andata proprio bene. C'è chi i sogni li fa, li facciamo tutti, pochi magari alcuni non li ricordano, e invece chi i sogni li porta in scena. In linea con noi abbiamo il piacere finalmente di avere Gioele Dix. Buongiorno e benvenuto. Buongiorno, buongiorno. Perché finalmente? Finalmente, perché è tempo che con Laura Vanossi la corteggiamo e finalmente siamo riusciti ad averla. Purtroppo dormivo purtroppo. Allora, quando mi cercavate dormivo. Quindi. A ottobre riprende teatro Sogno di una notte di mezz'estate, che è una bella soddisfazione. Sì, perché è una regia che ho fatto mettendo insieme un gruppo straordinario di comici e comiche giovani, conosciuti dal grande pubblico soprattutto per la loro attività televisiva, e invece in questo caso si sono messi al servizio di un progetto serio, importante, che è affrontare un classico come il Sogno di una notte di mezz'estate di Shakespeare, giocandoci dentro con tutte le armi e gli strumenti dei comici, anche perché è un testo nato per i comici. Shakespeare stesso amava molto i comici e ha costruito questa grande impalcatura meravigliosa basata appunto sul gioco del sogno, nel quale tutto è permesso, tutto è possibile. Insomma, quindi diciamo che è un grande gioco che piace al pubblico e che ha fatto fare a questi comici un bel salto di qualità. Un sogno per i comici. Sì, direi di sì, loro sono molto soddisfatti, anche perché in fondo il comico poi combatte dentro di sé con il desiderio di dimostrare di essere capace anche di non fare solo il comico, o perlomeno solo il comico che fa battute, ma certo, di poter usare il suo talento per indagare. La comicità è un bello strumento per leggere la vita, per leggere le cose, i sentimenti, insomma. Mi chiedevo, fare la regia di un testo classico, immagino, richieda rigore nel rispetto dell'originale, però allo stesso tempo fantasia, creatività, che del sogno sono quasi un po' le ancelle. Lei infatti ha ambientato lo spettacolo in un contesto periferico post-industriale, quindi molto diverso. Sì, ovviamente al tempi di Shakespeare questo testo era un pasticcio volontario, mischiava i suoi tempi, il convento delle suore con l'antica Atene, c'era volutamente una serie di incongruenze proprio perché il gioco era quello di mischiare i generi, e noi quindi abbiamo fatto un'operazione analoga ambientandola nei nostri tempi, salvando la qualità soprattutto della lingua shakespeariana, che comunque viene tradita perché traducendola la tradisci, però salvando soprattutto lo spirito vitale trasgressivo della comicità, che è il fondamento di questo testo e che è anche un po' il fondamento di gran parte dei sogni. I sogni spesso, almeno a mio parere, sono molto ironici se uno li legge, qualche volta sono anche angosciosi, ma insomma succedono delle cose veramente molto buffe, paradossali. L'ultimo che ho fatto è questa notte, infatti è buffo perché stamattina mi chiamate, io ho fatto un sogno e non ho ancora capito. Allora, siamo pronti. Cosa volesse dire, ma insomma... Che cosa ha sognato? Ma no, in realtà il mio sogno ricorrente è ambientato in teatro ed è quello di non riuscire a ricordarsi la parte, cioè essere in uno spettacolo nel quale io non so cosa dire, è una, siamo diciamo un sogno della inadeguatezza. Invece questa notte ho sognato di essere in un posto dove la gente era piccolissima, erano piccolissimi, e chiedevo informazioni a una commessa ed era talmente piccola che non riuscivo né a vederla né a sentirla, ma percepivo che c'era, andava al banco a telefonare da un telefonino piccolissimo, chiedendo informazioni a un altro reparto, e poi io le chiedevo, ma io posso diventare piccola come lei? Lei diceva, sì, guardi, se si mette qua si accuccia, poi mi sono svegliato. Poi sei svegliato e noi l'abbiamo chiamata. Sì, esatto. Dottor Ballerini, ma in un paese di lillipuziani è finito Joel ed X nella notte. Sì, ma mi interessa anche il sogno ricorrente, perché per la professione che svolge, il sogno di temere, anzi di non riuscire a ricordare la parte, posso buttare così, che è un sogno di rassicurazione. È un po' come quando sogniamo di la maturità. La maturità, identico. Questo sogno verrà sconfessato ogni volta, al risveglio ci sarà la coscienza di però non è mai successo, non succederà mai, per cui in qualche modo è un cosiddetto sogno di rassicurazione. Mentre il sogno di questa notte, che mi sembra anch'esso molto interessante, teniamo presente che nel sogno accadono condensazioni, stravolgimenti e anche inversioni, per cui capovolgimenti. Quello che mi chiedo è se in realtà non abbia sognato di essere con persone, personaggi molto più grandi, e il desiderio del ma posso diventare anch'io così fosse un sogno di aspirazione, forse. Un sogno di aspirazione, Joel ed X. Ah, interessante, io adoro i freudiani perché hanno questa capacità di comunque di trovare una risposta, perché è un allenamento straordinario. Io sono convinto, io ho fatto nel mio piccolo degli studi di psicologia, non l'ho finita la psicologia, ma è stata la mia grande passione e lo è tuttora. Mi sono convinto che questi strumenti sono importanti, strumenti dell'analisi, e credo anche che ognuno di noi possa, se riesce, allenandosi, anche trovare, no, le chiavi di decodifica. Ma deve essere così, mi perdono di dirlo, ognuno di noi deve trovare la propria chiave, non è riservato agli esperti, sono d'accordo con lui. Comunque lei oggi mi ha dato una bella chiave in più che non avevo considerato, che è quella del capovolgimento in qualche maniera. Chissà, magari finirà in un testo di Joel ed X, chissà. Sì, magari sì, no, tutto suggerisce spunti. Certo, assolutamente. Allora, noi verremo a vederla a teatro. Per le date possiamo andarle a leggere sul suo sito, ma sì, c'è un debutto il 19 di ottobre a Brindisi, poi abbiamo Bari, poi abbiamo Roma e la Toscana. Insomma, e poi salite. Grazie. Sì, è alla seconda stagione, quindi stiamo facendo un po' di piazze che non abbiamo fatto nella prima. Grazie a Joel ed X. È stato grazie un piacere averlo con noi. Torni però, torni, si svegli un po' prima e torni. Basta che mi svegliate in tempo. Va bene, ecco. Buona giornata. Arrivederci, grazie. Professor Ferini Strambi, lei sogna? Assolutamente sì. Ecco, però quello che così volevo dire, che è un po' quello che capita anche quando noi facciamo le nostre ricerche sui sogni in soggetti sia normali che in soggetti con diverse patologie. Ecco, quando al mattino si chiede a un soggetto cosa ha sognato, ecco, ricordiamoci che il 60% delle volte il soggetto non è in grado di ricordare cosa ha sognato la notte precedente. Quindi ecco perché a volte è bene non chiedere cosa hai sognato questa notte, ci sono degli strumenti proprio per la ricerca del sonno che dicono cosa hai sognato nelle ultime 3 settimane, proprio perché altrimenti si rischia di non riuscire a catturare il sogno della notte precedente. Quindi la domanda che noi facciamo agli ascoltatori, grazie professore che mi ha dato questo suggerimento, che cosa avete sognato nelle ultime 3 settimane, ma io vorrei proprio sapere se vi è venuta un'idea in sogno. Dottor Ballerini. Sì, perché capita, allora mettiamola così, iniziamo a pensare ai nostri sogni come dei suggerimenti. Sì. Spesso sono suggerimenti che ci arrivano dall'inconscio e a volte questi suggerimenti vale la pena davvero raccoglierli, e c'è chi lo fa. Per cui vediamo un attimino se ci è arrivato come un'idea quasi fulminante che non avremmo avuto da sveglio. e che abbiamo realizzato, e magari facciamoci raccontare che è andata bene o è andata male, ma di solito va bene. Abbiamo Leda da Roma, Ludovico da Milano e anche Maurizio. 800 24 00 24, facciamo una carrellata di sogni, mi auguro. Leda, buongiorno, benvenuta. Buongiorno. Eccoci qua. Buongiorno Nicoletta, l'ascolto sempre. Brava Leda, brava, perché ho essere tanto... benessere fa stare bene e poi porta anche buono. Mi racconti? C'ho 88 anni. Vede? E sono mesi e anni che mi chiedo se con tutte le tecnologie, gli apparecchi a impulsi eccetera, si potrà mai filmare i sogni, che sarebbero altro che fantascienza. Chissà se poi riusciremo prima o poi a filmare i sogni. Magari il professor Ferini Strambi ci può dare una risposta. Professore, è quello. Sicuramente, questo sarebbe una cosa bellissima, ma penso che non abbiamo, almeno attualmente, questa possibilità, perché una cosa importante è questa, che ci sono tantissime aree cerebrali che durante il sonno REM, durante il sogno, sono attivate. E dirò di più, sono addirittura più attive che durante la veglia. Cioè, quindi uno dei motivi per cui il sonno REM è chiamato anche sonno paradosso, uno dei motivi è proprio anche questo, il fatto che il nostro cervello in moltissime aree ha addirittura un metabolismo più attivo di quello che c'è durante la veglia. Quindi filmare sostanzialmente il nostro sogno vorrebbe dire essere in grado almeno di filmare anche quello che è il nostro pensiero durante la veglia. Quindi questo non è ancora possibile. Non è ancora con possibile. Le tecniche che abbiamo ora non è ancora possibile. Però. Ludovico, buongiorno da Milano. Sì, buongiorno. Come dice il professore, in effetti è vero, io sono un inventore, ho più di 75 invenzioni su energie rinnovabili, risparmio energetico e mobilità sostenibile. Sì. E la maggior parte delle mie invenzioni le ho risolte mentre dormo, di notte, mentre dormo praticamente poi mi sveglio con la soluzione del problema al quale mi sono addormentato cercando di risolverlo. Senta, ci dia la sua ricetta però, Ludovico, perché ne avremo un po' tutti bisogno. Uno fa un pisolino, si sveglia ed ecco, no, la soluzione o l'idea che ti cambia la vita. Magari... Ma mio nonno era un inventore, perciò mi è passato i suoi geni, perciò è una cosa anche genetica. Però diciamo che... di notte, mentre dormo, la mia mente elabora quelle che sono le mie invenzioni, le mie necessità, e è come se avessi un software 3D che riesco a modificare e a simulare, a creare e allungare, modificare, stringere, tagliare un oggetto 3D mentalmente, e vado a trovare le soluzioni. E ho ben 75 invenzioni, cosa che tutti quanti dicono è impossibile, però... E invece noi ce l'abbiamo, Ludovico da Milano, dorme e risolve e inventa. Ludovico, complimenti. Dottor... Grazie. E continui così. Dorma, Ludovico, dorma. Ludovico, lei è proprio il caso di chi dorme piglia pesci. Non trovo che sia assolutamente scorretto il proverbio chi dorme non piglia pesci, perché si prendono dei pesci, sono proprio quelli che ci arrivano dal sogno. Ringrazio il professor Ferini, perché quando ha sottolineato come le aree cerebrali sono più attive, è proprio la documentazione della neurofisiologia, delle neuroscienze, che arriva dalle neuroscienze, del fatto che il sogno sia un lavoro. E a me piace dire che è un lavoro riposante, per cui il lavorare stanca di una certa memoria, di fatto abbiamo l'esperienza di un sogno che riposa, per cui mentre dormiamo il nostro cervello, il nostro pensiero sta lavorando, e forse il segreto di Ludovico è di prendere sul serio quello che gli arriva di notte. Abbiamo Maurizio che ci chiama da Milano all'800 24 00 24, prima dei mercati. Maurizio, pronto? Scusi, sì. Eccomi. Io sono un po' anomalo, nel senso che non ricordo un sogno, non ricordo mai un sogno. Niente, neanche nelle ultime 3 settimane, come suggeriva il professor Ferini Strambi? Assolutamente. Mai? No, le uniche cose che ricordo sono nel dormiveglia della mattina e basta. Però io di notte non ricordo di aver fatto un sogno o di ricordarmi un sogno. Maurizio, ci occuperemo di lei. Magari grazie. Qualche consiglio i nostri esperti riusciranno a darle. Magari poi diventa amico di Ludovico e anche Ludovico le scriverà magari la ricetta, non solo per sognare, ma per sognare anche la soluzione di problemi. Lei rimanga con noi. Sogni che non li vuoi raccontare, troppo grandi per poterne parlare, troppo dolci. sogni belli, brutti, ricorrenti, sogni divertenti, sogni che in qualche modo anticipano qualcosa che poi ci capiterà, ma c'è chi i sogni non se li ricorda. Allora, professor Ferini Strambi, dottor Ballerini, ci date, ciascuno dal proprio punto di dal proprio osservatorio, una dritta per in qualche modo cercare di ricordare i sogni, dato che tutti li facciamo? Sicuramente il fatto di non ricordarli dipende anche da quello che succede negli ultimi 10-15 minuti del proprio sonno, nel senso che se un soggetto fa 10 minuti terminali di sonno non REM, al risveglio non ricorderà assolutamente cosa ha sognato, cosa stava sognando e cosa aveva sognato precedentemente. Ma un trucco potrebbe essere quello di puntare la sveglia un po' prima rispetto a quello che è l'orario in cui ci alziamo abitualmente, anche perché il sonno REM è presente soprattutto nell'ultima parte della notte, e quindi ad esempio puntando la sveglia verso le 5:30 c'è un'alta probabilità di svegliarsi nel corso di una fase di sonno REM e quindi di ricordare in questo modo il sogno. Quindi puntate la sveglia, un piccolo sacrificio per ricordare i sogni. Dottor Ballerini, lei ha una lettura diversa. Allora, io adoro essere in trasmissione con il professor Ferini Strambi. Pensavo con me. Vabbè, ma con non è scontato, gentile. Ma, sì, è vero, non professore, sono stato gentile. Non la invito più. Insomma, ho fatto outing con il professor Ferini Strambi. No, perché davvero vedo una complementarietà. E imparo sempre molto. Dal mio punto di vista, dalla mia prospettiva, il non ricordare i sogni è anche segno di resistenze che sono in atto nel raccogliere il materiale che è stato prodotto durante la notte. Rassicurerei chi dice di non ricordare i sogni sul fatto che comunque sogna. Perché quello accade sempre e accade a tutti. Quindi si tratta davvero di qualcosa che non mi permette di ricordare. Da professor Ferini Strambi abbiamo visto che è il momento del risveglio. Possono esserci anche però dei meccanismi psichici che tendono a non farmelo fare. Mi viene in aiuto Joelle Dix, che prima esordito dicendo: buffo, sapevo che avrei parlato stamattina di sogni e proprio la scorsa notte ho sognato. Accade anche a chi inizia un percorso di psicanalisi che quasi improvvisamente inizia a ricordare i sogni. Ecco, a volte se noi magari la sera ci chiediamo chissà che cosa sognerò stanotte, è forse anche un pochino più facile che domattina io me lo ricordi. Shell, sei in linea? Sono in linea, Nicoletta, buongiorno. Ciao, è in linea con noi Shell Shapiro e il discorso sui non sogni o sulle persone che non ricordano i sogni è un po' anche dedicato a te. Ma sì, io entro in quella categoria che difficilmente ricordo quello che sogna. Io so benissimo che sogno, e presumo tutte le notti. Le volte che mi ricordo qualcosa, però, me lo ricordo per i primi 10 secondi e poi penso a qualcos'altro che mi devo alzare, bla bla bla, e non mi ricordo già più nulla. Quindi io credo di avere una specie di rifiuto di ricordare, forse, è una salvaguardia. Forse faccio dei sogni brutti e mi salvaguardo in questo modo qui. Però che nel dato che tu hai scritto un libro che mi è piaciuto molto, di cui abbiamo parlato, Sono immortale, tu, dato che sei immortale, avrai tempo, no, di recuperare i tuoi sogni. Tra l'altro arrivo proprio a questo libro perché insieme al dottor Ballerini leggevamo, dottor Ballerini, lei si è appuntato. Sì, io mi sono appuntato perché ho detto: guarda, parliamo di sogni. A un certo punto nello strillo che promuove il libro, abbiamo notato questo: fare la star è qualcosa di magico, anche se effimero, anche se impalpabile, anche se non ti garantirà mai il posto fisso, anche se è proprio stupido fare la star. Cosa fai? Tu lavori, io faccio la star. Ora, sì. è molto divertente. Quello che mi ha colpito è che, caspita, sembra che stiamo parlando di un sogno, no? Perché è qualcosa di magico, è effimero, è impalpabile, magari non ti garantirà il posto fisso, a qualcuno può sembrare stupido, eppure i sogni ci sono e ci servono. Quindi chissà se è davvero vero che poi non se li ricorda i sogni, magari li mette nelle sue opere. È vero, professore, lei ha ragione, però mi sembra che io io tendo a pensare che sogno ad occhi aperti, insomma, cioè i miei sogni li, in qualche modo sono palpabili, li affronto, o spero, o cerco di affrontarli tutti i giorni, cerco di avere dei punti di arrivo, confondibile con l'ambizione, forse è vero, però trovo che sì. Che sia importante avere dei progetti. I progetti diventano sogni poi in qualche modo, credo. E devo dire che tu i tuoi progetti ne hai molti e fai sempre centro. Tra l'altro proprio domani avrai un concerto? Sì, domani sera a Roma alla Terme di Caracalla, grazie Nico. No, mi fa piacere perché Shell è un grande artista e una grande persona, io sono proprio legata a lui da un'amicizia forte e come tante persone che già mi stanno scrivendo per complimentarsi con te. Grazie Shell, sognami stanotte. Poi mi racconti, va bene. Un bacio, grazie. Grazie, in bocca al lupo. Professor Ferini Strambi, Shel Shapiro diceva: io sogno d'occhi aperti. Quando siamo un po' imbambolati e siamo un po', no? Sembra che siamo altrove. Che cosa sta succedendo nel nostro cervello? Beh, in realtà non è che in quel momento noi stiamo sognando. È un po' è una situazione, diciamo così, quasi vicina al sogno, ma non è un vero e proprio sogno. Cosa vuol dire? Vuol dire che questo, tra le altre cose, è un po' quello che ci succede magari anche quando siamo nella fase di addormentamento, no? Quando ci stiamo per addormentare, che vediamo che ci sono tanti frammenti di quello che stiamo pensando che si rincorrono, ci mettiamo dentro altre cose. Ecco, cioè è una situazione, una condizione dove praticamente non c'è più una certa logicità di pensiero, no? È un po' quello che avviene durante il sogno. Cioè, quindi mettiamo insieme un po' di esperienze diverse e ci inseriamo dentro anche qualche pezzo fantastico, quindi è un po' la coscienza, lo stato di coscienza che si allontana da quella che è la condizione della realtà. Ecco, quindi per quello che il sognare ad occhi aperti in un certo senso è anche un po' vicino a quello che è il vero e proprio sogno. Sicuramente il sogno comunque è qualcosa di ancora più fantastico, perché sappiamo benissimo che durante il sonno REM in particolare noi mettiamo dentro nel sogno tanti elementi che sono assolutamente a volte non accumulabili durante la veglia e durante il nostro ragionamento. Quindi mettiamo insieme esperienze che sono magari molto lontane o che non c'entrano nulla con quello che è la realtà, no? E quindi ecco, questo è importante ricordarlo, perché ricordiamoci che la nostra mente, anche quando non è nel sonno REM, comunque ha un'attività di pensiero. Cioè, quindi quando noi siamo nel sonno non REM non è che il nostro cervello è completamente spento, no, funziona e in un certo senso continua a lavorare, però lavora in una maniera molto più vicina a quello che è la realtà. Invece il sogno proprio è il momento della massima bizzarria, di un contesto assolutamente fantastico. Allora, ci sono dei sogni che eviteremmo volentieri di fare e di ricordare, sono gli incubi, molti di voi mi scrivono ad esempio sogni ricorrenti, sgradevoli, parleremo naturalmente anche di questo, ma se incubi, sogni un po', no, negativi, bui vi visitano spesso, spostate le scarpe da ginnastica. Incubi notturni? Se pensate sia colpa dello stress, siete fuori strada. Il vero colpevole, secondo un gruppo di ricercatori tedeschi, è il cattivo odore, che insinuandosi nel naso disturba il cervello e quindi il nostro riposo. Ma possibile che un paio di scarpe da ginnastica o qualche uovo marcio siano così potenti da influenzare il nostro cervello? Il nostro olfatto chiama in causa una delicata e complessa attività neurologica che gioca un ruolo fondamentale nel nostro comportamento. Gli odori sono un elemento decisivo per le emozioni, ma anche per l'appetito, la sessualità e soprattutto la memoria. L'area del cervello che gestisce l'olfatto è infatti strettamente legata a quella che sovrintende ai ricordi. È questo il motivo per cui un profumo che riconosciamo come familiare può innescare una vivida reminiscenza o una sensazione specifica. L'olfatto umano viene spesso sottovalutato. Eppure, siamo in grado di distinguere 10.000 differenti molecole dell'odore, grazie ai 400 recettori olfattivi presenti sui neuroni. Sogni d'oro, ma anche profumati. Scarpe da ginnastica permettendo. Da Salute 24. Allora, sonni profumati, sogni assicurati. Buongiorno al dottor Luca Voledo, naturopate, bentornato. Sì, buongiorno Nicoletta, ben trovati. Bello questo inserto, non c'è solo l'influenza però su sonno e sogni dei cattivi odori, ma esistono anche per fortuna odori, o meglio profumi, che aiutano a dormire meglio. È questo che vorrei sapere da lei. È il campo di una disciplina naturale che si chiama aromaterapia, e quindi degli oli essenziali, delle essenze aromatiche che vengono estratte da diverse specie di piante. Profumiamo le nostre notti per sogni d'oro, o almeno sogni belli. Dottor Voledo. Eccoci. Sì, si parlava di oli essenziali che hanno delle specifiche proprietà salutistiche, che arrivano velocemente alle cavità nasali e stimolano in modo deciso l'olfatto, come si diceva nell'inserto di prima, il sistema nervoso centrale. Tra gli oli capaci di favorire un buon sonno e quindi anche sogni d'oro ne esistono diversi. Ne segnalo uno tra i miei preferiti, anche perché ha un ottimo rapporto qualità-prezzo, meglio efficacia-prezzo, è l'olio essenziale di lavanda, il cui profumo è notissimo, ma non tutti sanno che gli effluvi della lavanda aiutano a dormire, una proprietà confermata da diverse ricerche scientifiche, e io suggerisco un modo molto semplice di utilizzare l'olio essenziale di lavanda, provando a metterne poche gocce sui polsi, nella parte interna, al momento di coricarsi, e i suoi effluvi calmanti riescono a sciogliere la tensione e a facilitare il riposo. Quindi un po' di lavanda, un po' di olio essenziale di lavanda. Chiudete gli occhi e abbandonatevi. Sì, per chi non gradisce però il profumo della lavanda, che in effetti è molto particolare, c'è anche un altro olio essenziale interessante, che è l'olio essenziale di gelsomino, altro aroma. Sì, conosciutissimo. Conosciutissimo, tutti hanno annusato passando vicino a qualche siepe o cancellata in estate. Ebbene, anche questo profumo ha una dimostrata efficacia di facilitazione del sonno. E qui per esempio si può pensare anche a un'altra modalità di utilizzo dell'olio essenziale di gelsomino, versandone per esempio qualche goccia in un popurrì in camera da letto, o io per esempio lo utilizzo in inverno mettendolo nell'umidificatore del calorifero, e anche questo aiuta a riposare più serenamente e tenere alla larga i sonni agitati e gli incubi. Allora, il consiglio del dottor Voledo: lavanda o gelsomino? E lavanda. Poi fateci sapere. Grazie, dottora Voledo, ci sentiamo presto, ma possiamo leggerla anche nel nostro Daily Lab, l'appuntamento quotidiano per il nostro benessere. Buona giornata. A presto, buona giornata anche a voi. Angela da Catania, buongiorno. Buongiorno Nicoletta, lei e i suoi ospiti. Io volevo raccontare due sogni ricorrenti che entrambi mi creano molta angoscia e lo stesso disagio. Uno è quello di trovarmi praticamente nuda in mezzo a gente vestita e trovare questo disagio di sentirmi nuda davanti a loro, che peraltro non si accorgono della cosa, il disagio è tutto mio e cerco in qualche modo di coprirmi e di nascondermi. E l'altro è quello di cercare un bagno, una toilette, ma anche questi sono allo scoperto, tra gente che passa. E io ho questo disagio di dover andare in bagno e di cercare anche lì di nascondermi e di avere della privacy che non trovo. Insomma, si sveglia da questi sogni stanchissima. Perché, perché sono tesa alla ricerca. Il sogno di nudità è un sogno frequentissimo. Soprattutto, anzi spesso accompagnato dal fatto che gli altri sono vestiti, io sono nudo, vorrei anche spostarmi, muovermi, ma quasi non ce la faccio. Sono quelli che vengono chiamati sogni di esibizione, in qualche modo hanno a che fare con qualche ricordo infantile o con ciò che è realmente accaduto nell'infanzia, quando da bambini potevamo permetterci di essere un po' esibizionisti, quindi vediamo spesso nelle case dei bambini nudi che corrono per, sì, no? E i genitori che dicono vatti a vestire, di fatto è qualcosa che il bambino gradisce farsi vedere, perché mette a disposizione il suo corpo dell'altro senza malizia. I sogni di nudità fatti dall'adulto ricordano questo piacere dell'esibizione, e il non potersi muovere documenta anche il conflitto che si è creato tra il mio piacere di esibirmi ma non posso più farlo perché sono grande. Prof. professor Ferini Strambit, ci sono tanti ascoltatori che mi chiedono quando tornerete a parlare di sonno disturbati. Ma lei tornerà a parlare di sonni disturbati, vero? Ma certamente. Ci faremo addormentare tutti. Certamente. Sogni d'oro a tutti. Grazie al professor Ferini Strambi per essere stato con noi. Grazie a voi. Buona giornata. Voi. Grazie anche a voi. E in mezzo a tutti questi sogni noi vogliamo parlare anche di un sogno americano. In linea con noi abbiamo Pamela Quincy da New York. Pamela, ciao, benvenuta. Buongiorno. La sua storia, la storia di Pamela che realizza scarpe a New York è raccontata su vogliovivecosi.com. Pamela, tu sei partita, abbiamo pochi minuti per raccontare un sogno che tu hai realizzato con grande soddisfazione e coraggio. Grazie. Direi. Un sogno che si continua ad avverare tutti i giorni. E io sono partita nel 2009, vivevo a Milano da più di 10 anni, io sono nata e cresciuta a Roma, a Milano ho studiato e lavorato nella moda, nel 2009 ho tentato la fortuna e mi sono trasferita a New York. Prima sono arrivata come un viaggio di come turista e poi con tutta me stessa ho cercato di trasferirmi, di trovare lavoro. Lavoro che è arrivato fortunatamente dopo poco, grazie a tante interviste, diciamo che ho trovato subito questa azienda che mi ha sponsorizzato e mi ha dato la possibilità di rimanere e di disegnare come designer. E dopo qualche tempo ho iniziato una mia collezione che adesso sono 2 anni, fortunatamente, che le persone amano. E diciamo che mi sta portando lontano. Abbiamo visto, sei lontano, ma la tua storia è sicuramente una storia che noi vogliamo proporre, perché si sogna anche ad occhi aperti. Con Anita abbiamo visto anche le tue scarpe, sono bellissime, ma la storia di Pamela ci insegna che i sogni bisogna anche tirarli fuori dal cassetto e ad avere un po' i piedi per terra per sognare. Dottor Ballerini, prendiamo un po' spunto rapidamente dalla storia di Pamela, che ringraziamo perché si è fatta una levataccia per venire a parlare con noi. Grazie Pamela. Diciamo che non sono andata ancora a letto perché domani c'è la mia sfilata, siamo durante la settimana della moda e quindi... Fantastico Pamela! Allora noi incrociamo le dita, sarà un successone, di questo ne sono grazie. Sicura. Allora riposati anche un po' e sognaci. Grazie Pamela Quincy e complimenti. Stavo per dire a Pamela che non credo che la levataccia le faccia problemi, perché dalla sua storia che cosa possiamo raccogliere? Che aveva un sogno, aveva un desiderio e coi piedi per terra ci ha messo un po' d'ambizione. E ha rischiato, perché ha rischiato di andare via e chissà come sarebbe andata, ed è andata bene. Quindi aveva un sogno, l'ha raccolto, ci ha messo un pizzico d'ambizione e ha detto: io ci provo. Potremmo raccogliere i sogni degli ascoltatori di Essere Benessere. Certo, gliela butto lì. Farlo. Cosa dice? Io direi che possiamo mi farlo. Faccia sognare, li mettiamo su Facebook e poi lei li sbircia. Volentieri li vado a sbirciare con interesse. E magari scrive? Magari se ci sarà qualche bello spunto. Anita Panizza in redazione, Carmelo Lauricelli regia la parte tecnica, il dottor Ballerini. Per oggi è tutto, vi saluto, sognate. Nicoletta, buona giornata.